ciao Giulio, ben sentito. Oh, ciao. Ciao Roberto, aspetta che tengo. Ecco qua. Stavo ascoltando. E allora, come va? Va bene, diciamo di sì, dai, un po' questo là così, ma nel complesso già va abbastanza bene, no? Ci sono già un 10 minuti qua, ho fatto un paio di chiamate, qualcuno fischia però non risponde, poi ho visto un segnale abbastanza forte col bip, mi immagino chi sia, probabilmente non voleva entrare. No, non lo so, perché io sono arrivato adesso, sono arrivato, ero giù, prima ero al computer, adesso stavo ascoltando musica, ma niente di particolare. Non c'è più nessuno, non è a più buia nessuno. La sera, questo è già il quarto tentativo che ho fatto io, perché salivo, accendevo, ascoltavo se c'era qualcuno, niente. Per quattro volte, qua c'è la quarta volta, adesso ci sei tu e va bene così. Anche io ho notato un po' di poca gente. Ieri sera abbiamo fatto delle prove su canale, non mi ricordo se era canale 40, non mi ricordo, 27405, non mi ricordo che canale è, e c'era questo nuovo Alberto, un nuovo arrivato, una persona veramente in gamba, abbiamo fatto il mandato laterale, c'era anche, chi c'era ieri, Gianfranco, c'era Claudio D'Amuro, però erano tutti spostati, stranamente, l'unico centrato era lui e poi Gianfranco, io naturalmente, che eravamo con apparecchi un pochettino più selettivi. Gli altri dicevano c'è fuori frequenza, anche loro c'era l'apparecchio nuovo, cioè, invece erano loro fuori frequenza, non lui. Ah, ho capito. E infatti io ieri lo stesso ero all'ascolto, non ho sentito nessuno, ma voi la batteria, evidentemente gli orari non combinavano esattamente alla stessa ora, non lo so, vabbè, comunque. Con Claudio l'altro giorno l'ho sentito a 27.555, ma questo già risale a forse 10 giorni fa, forse anche 12. E stavo parlando con Ossieri e dunque sono entrato a salutare, però io a quello di Ossieri non lo sentivo, lui a me mi sentiva, ma io a lui non lo sentivo, tramite Ponte con Claudio di Muros andava bene lo stesso. Io se non c'è QRM alto riesco a tirarlo fuori, se no, perché io ce l'ho sempre alto qua, il QRM mio è sempre 6-7, lui arriva, sì, lo sento che parla, ma molte volte non capisco quello che parliamo in AM e sono in due, e in banda laterale non abbiamo mai provato, ma sicuramente in banda laterale l'ascolto bene, però purtroppo io troppe volte ho il QRM altissimo, poi la Mantova è molto rumorosa come antenna, adesso quando ho tempo, che migliora la giornata, metto un'altra antenna e cerchiamo di risolvere il problema dei disturbi. Ok, beh certo, quello sì è vero, metti una canna a pesca e hai meno rumori sicuramente, anch'io prima quando avevo la Mantova Turbo avevo parecchi rumori, per cui, perché si sa, è così, purtroppo è così, mentre invece con questa adesso intorno al 3-4 massimo quando c'è molto rumore, va bene così, insomma diciamo che ho migliorato, almeno è più silenziosa questa lei. E poi mi trovo bene con questa antenna, senza radiale, senza niente, chi se ne frega. E beh, parlo lo stesso, non c'è problema. Adesso c'è questa antenna nuova che sta facendo lo stesso progettista della Mantova e si sono separati, erano due fratelli, non so se l'hai visto con l'antenna, ho visto la prova strumentale, c'è questo qua, Radio Killer eccetera eccetera, gli hanno mandato uno a provarle, lui c'ha la Mantova attaccata, hanno fatto le prove strumentali, molto meno rumorosa della Mantova, ma molto molto meno di cose, i segnali che la Mantova non riusciva a prendere, segnali bassi, riusciva a tirarli fuori, in trasmissione non ha notato differenze, però in ricezione ha ricevuto molto meglio, cioè con lo strumento parliamo di un apparecchio con misuratore di campo, non ascoltando col V-meter del coso, della, come si chiama, con l'indicatore dell'apparecchio del trasmettitore, cioè aveva un misuratore di campo e ha controllato quanti decibel era il segnale eppure lo tirava fuori, ed è una bella antenna costruita in modo veramente di qualità, non è una cagata, hanno migliorato come concezione come la Mantova, c'ha gli stessi radiali come la 5, però i radiali sono più lunghi, la struttura è molto più robusta, è tutto in alluminio, il piantone è fatta, diciamo, costruita molto bene. Cioè, mi hanno mandato il video e mi è proprio rubrofetta, Gianni rubrofetta, ti posso dire è veramente una bella antenna, non so quanto costi, ma se deve entrare nel mercato sicuramente deve tenere prezzi bassi, ma è costruita in modo eccellente. Ce l'ho anch'io, stai parlando della Grazioli, mi sembra, se ricordo bene, qualcosa del genere. Ce l'ho io da tempo quel video lì, Radio Killer, Francesco, lo conosco, ogni tanto ci parliamo anche su YouTube. Avevamo fatto collegamenti anche tramite Baracchino quest'estate appena passata. Infatti aveva mandato anche il suo video, cioè del mio segnale, tutto lì. Sì, Radio Killer, e adesso è diventato radioamatore, è diventato. Lo so, ha i radiali molto lunghi quello. Adesso non so se ce l'ha, da 2,45 ogni radiale, ma sono immensi, no? Già io mi stavo lamentando perché sono lunghi 160 quelli della Mantova Turbo. Figurati un radiale così lungo, ui. No, non ne metterò più, mi tengo questa io e va bene così, non c'è problema, va più che bene, quando c'è propagazione ci parlo con tutti, e qui Sassari e Zone Dimitrofe fanno lo stesso, per cui, perché devo cambiare, no, non è il caso, non è il caso, assolutamente. Sì, no, se va bene. L'altro giorno, per fare un esempio, c'era la Grecia, qua arrivavano in FM quasi fondo scala, e c'era Rubroffetta, Gianni e Muros, loro non li sentivano, appena Muros riusciva a ascoltarli, ma loro giù, io li arrivavano a fondo scala qua, fortissimi, ma proprio forti, per cui certe zone, anche se c'è l'antenna, magari non riesce a incanalare, eppure la propagazione, io li ascoltavo in propagazione, ma li ascoltati per un'oretta, non per 10 minuti, loro proprio zero. Qua arrivavano a bomba, mi hanno anche risposto un po' in modo antipatico, qualcuno ha risposto, qualche altro si è messo a ridere, infatti l'ha detto, vai figlia di là, come dico la Sassari, a facco lì. Ok, va bene, no. Quello sì, quello dipende dalla propagazione, alle volte in una posizione si sente, in altre posizioni ma non si sente. Penso che io addirittura ero riuscito a parlare con la Florida. Se vuoi immaginare, Florida è l'America, no? Non è che mi dà ridolo per dire, ma sono casi eccezionali questi, non è che li senti, eravamo di mattina, una giornata abbastanza tranquilla, giornata d'estate, sempre parlando di propagazione chiaramente. E c'era questa famiglia emigrati lì in Florida, lì c'è, mi aveva detto che c'è un quartiere dove ci sono tutti gli italiani, praticamente una specie di cosa, come si chiama, di borgata dove ci sono tutti gli italiani, e vabbè, va bene lo stesso, non c'è problema. Sì, diamo la verità, no, anche io gli Stati Uniti ho parlato, il punto più lontano che ho parlato è la Patagonia, a sud del Cile, vicino al Polo Sud, quello è stato il collegamento più lungo che ho fatto come distanza, ma tu mi hai detto che hai parlato con l'Australia, o sbaglio, tu me l'hai detto? No, non mi ricordo, no, con la Florida, in Florida sono arrivato, guarda che... Santiago di Cile è lì vicino a me stesso, non è Portogallo, Santiago di Cile, tutta quella zona lì. E questo era sulle coste del, non mi ricordo adesso, Florida, però sulle coste non mi ricordo, vabbè comunque, non mi viene in mente, dai, è passato un po' di tempo. Ma comunque, ormai non è che sono più interessato più di tanto a questi collegamenti così, una volta sì, ma adesso non più, anche perché non è più come prima, oggi li senti una volta ogni volta di pappa, cosa, non è, vabbè, dall'Italia li senti tutti i giorni quando c'è propagazione, chiaramente, oppure dalla Spagna, dal Portogallo, questo sì, anche dalla Germania, ma collegamenti così, extra collegamenti, perché quelli sono extra collegamenti, sono, non li fai tutti i giorni. Assolutamente, perlomeno qua in Sardegna non credo. Sì, no, è lontano, no, ma la Patagonia è presente molto, ma molto più lontano, e il la Florida è la costa ovest degli Stati Uniti e diciamo linea d'aria sono qualche migliaio di chilometri, per dire 3.000 chilometri, ma la Patagonia è nella parte bassa del Sud America, proprio lì dove c'è la Terra del Fuoco, Capo Horn, la parte più bassa del continente sudamericano, è lontanissimo, ancora più lontano, sarà più del doppio di distanza, deve attraversare tutta l'Africa, tutto il Brasile, scendere giù, e come distanza sarà più del doppio che andare in Florida. Ah, non lo so com'è questa questione, so solo che sono distanze enormi e riuscire ad arrivare con questa frequenza a lui non è semplice. Poi considera che io sono sempre nella valle, non ti dimenticare mai che io sono a valle, non sono mai sulla punta della città. Io già rispetto a Sassari sono 90 metri più in basso, 95 metri, perché io sono a 130 metri, misurato e con lo strumento professionale qua sotto casa, siamo a 95 metri più basso di Sassari. Sassari 225 metri, se poi consideriamo l'altezza dove sei tu, che magari sia 350 metri o addirittura anche più in alto, quando si va ancora più in alto, tipo che so io, Montefurno, quella zona lì, e allora si incomincia ad essere ancora più in alto, a 400 metri minimo sopra il livello del mare. Io sono un po' penalizzato in quanto a quello, nonostante tutto diciamo che mi difendo lo stesso bene, dai. Assolutamente niente, anzi molte volte tu ascolti cose che io non riesco a tirar fuori, per dire quando c'è la zona di Castelsardo, quelle zone di Vidalba, tu riuscivi a sentire, io a Giumai neanche correre sentivo, è capitato tante volte, mentre altre zone magari sono favorevoli io, ma gli animali non mi lamento, sono abbastanza aperto io. E c'è gente magari tipo Claudio che arrivano meglio di me perché c'è una posizione un po' più favorevole, anche più in alto di altezza eccetera, eccetera. Ma diciamo qua a Sassari mi difendo bene, non ho niente da eccepire, ho una buona antenna, una buona ricezione. Io sono sicuro dove sono io, se metto la direttiva orientata verso le Canarie, le isole spagnole, io arrivo anche di certa propagazione di lì. Ok, è possibile, perché no? È possibile sì. Certo, non c'è da meravigliarsi, io lo credo. Tu pensa che solo ad Alghero, ad esempio, io arrivo basso, ci arrivo basso, e sento bassi anche. Tu pensa che c'è quello che di solito ogni tanto parla ad Alghero, addirittura con 300 watt, perché lui ha un lineare a 300 watt, mette 300 watt, io lo sento appena Santiago 5-6, non di più, con 300 watt. Io non ho quella potenza, io potenza non ne ho, per cui io quel play a quei livelli non è un problema, e nonostante tutto mi sento lo stesso. Mentre invece lui quando non attacca proprio sento il bisbiglio e non capisco quello che dice, e dici no, ma tutto questo perché? Perché io davanti a me ho tutta la montagna di Monte Oro, è chiaro che lì per me è un ingombro grande quello, è un'ostruzione che non finisce mai, perciò magari invece se mi dovessi spostare da qualche altra parte, ad esempio che so io verso Ottava, la Ottava arrivano meglio, arrivano lì perché c'è più aria, dai, non c'è più Monte Oro davanti. Sì, sì, a te un po' ti ostacola, ma no, io Alghero lo vedo, io vedo Capocaccia, il faro di Capocaccia da casa mia si vede proprio la luce, la notte, quando io ce l'ho di fronte, tutta quella zona lì sono assolutamente aperte, infatti i segnali da Alghero arrivano forti, non posso dire niente. Ti ripeto, l'unico problema io ce l'ho nella zona dopo Santa Maria Cugina, Svadese, di lì vari, c'ho quella collinetta di Coso, di Sorso, di lì un po' mi ostacola, ma diciamo non è che sia molto interessato perché lì non c'è molta gente, qualcuno da Alghero già l'ascolti. Poi l'altro giorno abbiamo fatto la prova in macchina sino a Chiaramonti, ho sentito quello chi era, adesso non me lo ricordo chi era, ed era in macchina e tra l'altro non aveva neanche un segnale forte perché era con la potenza dell'apparato, sino a Chiaramonti l'ho ascoltato e lui mi ha ricevuto. Sì, sino a Chiaramonti quando c'era Gianni, che adesso abita via Porto Torres, quando c'era Gianni diciamo che ci parlavo con Chiaramonti, ma se per quello Io mi ricordo tempo fa, sempre parlando con questo Gianni, si trovava a Tempio, lui si trovava, no? Ed era ai 1000 metri, non era su proprio a cosa, come si chiama? Vabbè, già mai capito, proprio dove c'è il ripetitore, era un po' più in basso. E stava parlando con la Maddalena, o meglio, stava parlando con me, stava parlando, era a Tempio, cosa che non è molto facile arrivare a Tempio. Stava parlando con me, Gianni ed io stavamo facendo questo. A un certo momento è entrato questo tipo dalla macchina addirittura, ed era dalla Maddalena, lui lo sentiva, io no. E dunque Gianni poi mi ha fatto la ponte, lui a me mi sentiva questo alla Maddalena, io a lui non lo sentivo, però lui era in macchina, questo bisogna riconoscere, evidentemente sarà per quello che non riuscivo a sentirlo. E dirti, no, capita, queste situazioni capitano, perché da posizione a posizione c'è sempre una grande differenza, la posizione è fondamentale per l'altezza della radiofrequenza. Sì, avanti breve. Ciao Claudio, buonasera. Oggi stai uscendo bassino del radio, ma già ti sento, non c'è problema. Avanti, va bene. Sì Claudio, ho ben sentito, sei più basso di ieri, ma sempre con la stessa radio, sei unide, non è cambiato. Ieri eri 9 più 20, adesso sei quasi 9 più 15, comunque ti ascolto perfettamente, radio 5, ho notato solo differenza di segnale un pochettino, magari in lunga distanza verso Giulio di lì lo notano ancora di più. Ok Claudio, sì, anche perché oggi c'è un pochino più di QRM, comunque se ti sento lo stesso non c'è problema, o forse non si è accordato perfettamente come lo vedi l'altro giorno. L'altro giorno ti sentivo proprio sparato, del radio sparato veramente, oggi invece la radio è bassa, però già ti capisco ugualmente, non c'è problema, va bene lo stesso, avanti va bene. No, va bene, a me arriva sempre più forte di 9, anche se c'è con pulito, lui è sempre oltre 9. E io ho notato solo un abbassamento di 5 punti di coso, da 15 a 20, cioè da 20 a 15 viceversa, e basta. Sta uscendo una trentina arrivata, mi ha detto, quando esce con 80 arriva a 9 più 20, adesso è quasi 9 più 15. Non c'è problema, l'ascolto perfettamente, e anche io penso che lui mi ascolti ugualmente bene, ascolto tutti bene, non ci sono problemi. Adesso io direi lasciare un secondino di bianco, facciamo una chiamata su 10, se c'è qualcuno che vuole entrare, se no riprendi tu Claudio. Dai Claudio, il B c'ha la versione B, quindi c'ha anche i filtri, guarda, una grande radio, ma la sta vendendo. Ok, sì, e beh, sicuramente uno Yaesus è una un'ottima macchina, non ci sono dubbi. Non ci sono dubbi Claudio. Vabbè, comunque. Ma come mai hai queste stazionarie così da un giorno all'altro, Claudio? Sì, beh certo, non devo rischiare. Se salgo le stazionarie non è che puoi rischiare, no, assolutamente no. Strano, con l'antenna, noi stavamo parlando poc'anzi di questa antenna nuova che è uscita da poco. Evidentemente dovrebbe essere veramente una nuova antenna, l'ha pubblicizzata quell'amico di Lecce, Radio Killer, cioè Francesco Luna Rossa praticamente. Lui adesso è diventato radio amatore, è diventato, ma io l'ho sentito già ormai 3 volte in propagazione, poi qualche messaggio su YouTube, perché lui fa dei video, no? Lui mette e poi magari ci sono poi le persone che lo contattano, lui risponde e dunque va bene così. Anzi a me mi aveva fatto anche un video tempo fa quando avevamo fatto un collegamento, questa estate appena passata, e mi aveva fatto un video, mi aveva fatto e l'ha mandato con il mio segnale, eccetera eccetera. Va bene. E che antenna hai io, Claudio? Scusa Robe un attimo, che antenna stai usando perché in questo momento? Ok, ho capito, sì, la conosco, beh certo, non credo che sia, sì, non sarà male, ma non è molto performante secondo me. Per me le antenne che funzionano bene sono solo quelle Mantova e anche la Game Master, poi per il resto nemmeno la 827 o i della Sirio, anche quella è molto molto debole e in poco tempo si distrugge anche quella. Va bene, dai, oppure sai cosa potresti comprare? E se trovi una Stellar, la Stellar vedi anche 8 radiali oppure a 16 radiali, che è eccezionale, io ce l'ho avuta per 30 anni e oltre, ma era veramente una grandissima antenna, veramente molto molto bella. e funzionava alla grande, veramente. E devo dire che i radiali erano 16, quelli che avevo io, ed erano corti, erano da 70 cm di lunghezza, e non facevano un minimo rumore la notte quando c'era vento, eccetera, a differenza della mattoma tubo, che ho, però che non sto usando adesso perché ce l'ho smontata, quella non va bene come antenna, però è rumorosa, molto rumorosa, e la notte quando c'è vento è fastidiosissima. Avanti Roberto. Stavo dicendo, Giulio, l'antenna di Walter, ho visto che ne ha buttato tutto il vento, lui c'ha quell'antenna su, che cos'è? Un'antenna per la 27 o per altre bande? Sembra una stella quella, l'hai vista dove c'è la stazione Ali Punti? Sì, l'ho vista, certo che l'ho vista, no, ma aveva la mantova, aveva, ma credo che abbia anche la Stellar, sì, anche la Stellar ha, se ricordo bene, lo so, Walter, va bene, ha tante antenne, non è che ne ha solo una, antenne tutte anche direttive, insomma è tutto un impianto molto particolare. Sì, beh, sì, l'avevo saputo che aveva fatto un disastro con la famosa uragano che era arrivato un mesetto fa, due mesi fa qua nella zona, dalla sua parte era, e vabbè, e non solo quello, ha fatto altri danni anche ai tetti, eccetera. Purtroppo succedono queste cose. Vabbè, avanti, riprendi. Io no, ho visto che non c'ha più niente, è rimasta solo con l'antenna lì, credo che sia, non mi sembra la turbo, almeno quando era così, mi sembra un po' più grande, no? Sembra questa stella che stai dicendo tu. Claudio, una domanda, ma come lo state alimentando l'effetti 1000? No, solo a livello di curiosità, perché è una bella radio quella, l'avrei voluto sentire in trasmissione, come, scusa Giulio, monopolio, no, quello che volevo dire, ma in ricezione 27 l'hai utilizzata? Ok, certo, sono radio professionali che chiaramente costano quelli, però diciamo per iniziare te la puoi trovare una KF proprio per fare pratica, ma tutto questo quando magari hai preso la patente, così almeno puoi anche trasmettere, tanto per ascoltare va bene anche il baracchino, e tanto devi trasmettere, al momento devi trasmettere solo su questa banda qua, poi col tempo quando avrai studiato, che ti senti preparato, potrai dare gli esami, potrai dare, penso che sia a maggio oppure a ottobre, due volte all'anno credo, o addirittura una volta all'anno adesso, non so come, io non mi sono più interessato di queste cose, non ci penso proprio, magari anni fa ci stavo pensando, ma non ho avuto mai il tempo di studiare, intanto perché lavoravo, non avevo certo voglia di attaccarmi al libro poi per appunto studiare, no? E poi col tempo è svanita tutta quell'interesse, dai, è svanito, e allora ci ho rinunciato e non me ne frega niente, anche perché non mi piace riempirmi il tetto di troppe antenne, ecco, soprattutto quello, guarda, avanti, dove vai? Sì, lo so, diciamo. No, quella radio sta dicendo lui è una grandissima radio, il Millone la chiamavano perché è enorme, non va a ragione, però è una grande radio, era l'antagonista del Kenwood 950, che era l'evoluzione del 940, una grande radio, perché c'era la ICOM, aveva fatto fare il 7100, una cosa del genere, all'epoca erano il topo del topo delle radio amatoriali, erano il topo di gamma della IAESU, confrontata col topo di gamma della Kenwood e della ICOM, una grande radio, forse pure più grande del 940 come dimensione, già il 940 è enorme, è una volta e mezzo il 940 di larghezza, di frontale parliamo, del 140 del 440, una volta e mezzo, e c'ha l'alimentazione a 220 al contrario degli altri Kenwood che sono tutti a 12 volt, e così è quello lì, quella radio lì, l'FT1000, come si chiama, e diceva la 200 watt di potenza, c'ha il doppio ricevitore, c'ha degli option se ce l'ha inseriti, sono belle cose perché potevi utilizzare due frequenze in contemporanea, cioè sulla, siccome che c'aveva due ricevitori. Sì, ma mi ricordo, forse l'avevo vista a casa di Claudio, l'avevo vista io quel tipo di radio lì. Dimmi una cosa, qual è quel tipo che ha anche il coso, che si vede anche lo spettro delle frequenze? No, quelli sono più recenti, quelli che hanno lo spettro, analizzatore di spettro. Il l'ICOM forse il 7100, forse c'è, non sbaglio, no, il 756 è stato il primo che l'ha montato, l'analizzatore di spettro, che era ancora a tubo, per cui era un po' delicato. Adesso li hanno modificati, li hanno fatti LCD. Infatti Claudio, quello che ha dato il suo, c'aveva qualche problemino. No, scusa, non era a tubo, c'aveva i vecchi LCD, quelli di prima generazione. Quello a tubo era l'ICR 9000, il ricevitore della ICOM, che quello c'aveva il coso a tubo, il display, e l'hanno, adesso qualcuno l'ha modificato e le ha messo l'LCD. Ormai tutte le radio di nuova generazione sono tutti, addirittura sono touchscreen, non hanno più tastiera e niente, fa tutto dal monitor. Però ti ripeto, una grande radio era quella della, cioè l'hanno fatta come antagonista della Echo, della chi, come si chiama, della Kenwood, che all'epoca era il topo. Adesso non scusate un attimo. Vabbè, dai, comunque. Vabbè, così. Avanti Claudio. Ok. Ah, è un tipo che di Virasol, così hai detto Claudio. Ok, ho capito. Ho capito. Vabbè, d'altronde. D'altronde va bene così. Comunque si è aumentato un pochino il QRM. Scusa, vanno proprio a livello proprio preciso come QRM. Però ancora già riesco a capire con un po' più di difficoltà, ma già riesco a capire quello che sta dicendo. Avanti Roberto. Infatti stavo dicendo, sono rientrato, ho ricevuto una telefonata e pochi minuti non c'è stato problema. Ma quindi lui la usa anche in 27 e l'ha aperta con la radio, l'ha ampliata, Claudio. Quando capita, magari passate in officina, lo saluto così me lo fai conoscere, solo di coso. Per sentito dire da tramite te, però mi sembra una persona abbastanza in gamba, almeno dalle tue descrizioni, mi sembra una persona molto gentile e affidabile, dai. Ok, avanti a te Giulio. Certo. Quando una persona merita, c'è sempre da apprezzarlo, ci mancherebbe altro. È così, d'altronde deve essere così, non si può essere diversamente con le persone. Bene, bene, insomma, ti stai appassionando anche alla radio in maniera quasi morbosa, dai, io Claudio. Avete considerato che vuoi anche studiare per prendere la patente, eccetera, eccetera. Va bene, se hai voglia, sono contento per te. È una cosa bella, la verità, è una cosa bella, tu già sei giovane, per cui hai tutto il tempo per studiare e per poterti presentare anche a fare gli esami. E poi le radio già non ti mancano e poi ne puoi comprare altre, evidentemente, proprio quelle adatte per quelle frequenze lì. Avanti Claudio. Sì, sono contento, dai, c'è la passione, poi una passione sana, non è la solita passione dei ragazzi che, cacchio, che adesso sono tutti fissati col cellulare, questi giochi di società, ma anche gente grande, ragazzi grandi, stanno con questi cacchio di giochi che giocano online, eccetera, eccetera. Per me sono fissati, a me a parte non mi sono mai piaciuti i giochi, sia videogiochi e cose così, io non ho mai giocato perché non mi piacciono. È un po' il flipper, il biliardino, sì, però tutte queste cose. C'è gente grande, io ho amici grandi che giocano queste cose qua. Infatti, a me la radio è una cosa sana, anche se devo dire un po' sta diminuendo come utenti, dai, c'è sempre meno gente, poi molti sono con questi cose Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, molti sono andati a finire di lì e hanno un po' mollato la radio. Poi c'è da dire, le radio, quelle che stai nominando tu, sono bellissime radio, a me mi piacciono tantissimo, però piano piano anche quelli stanno scomparendo perché si sta andando tutto sul digitale, ti fa tutto col computer, una scatolettina e fai tutto. Però a me piace molto ascoltare, come hai detto tu, quella radio che c'è tu è un'ottima radio anche come ricevitore, per cui uno può anche solo ascoltare. Io sono SWL da diversi anni, ma anche da bambino a me piaceva sempre sentire qualcosa, perché radio a valvole, la notte metterti e tirar fuori qualche radio strana, eccetera, eccetera. Sono appassionato, poi come ho sempre detto, la passione grande sono i satelliti, che io mi sono divertito, mi sono tolto tante soddisfazioni, e però la 27 non la metto in secondo piano, perché mi piace, anche se devo dire rispetto a qualche anno fa ho meno tempo, la passione un po' si è un po' a tutt'itta, però c'è sempre piacevole quando trovi delle persone tipo voi, tipo te Giulio, quando si fanno delle belle discussioni, è interessante. A te Giulio il mic. Ok, sì, ma hai detto bene, è una bella passione, una passione sana. Giustamente se uno è appassionato fa bene anche a cercare di fare il passo in avanti, proprio per prendere la patente, eccetera, certo, non ci sono dubbi. L'unico problema, qual è? Che un salvadanaio è sempre aperto, non c'è niente da fare, perché quando si entra in quel giro lì, devi sempre spendere continuamente, o in radio o in antenne, perché non è solamente la radio, poi ci sono le antenne che costano una barca di soldi, costano, oltre al fatto che devi avere anche un tetto che ti permetta di installare certi tipi di antenne, perché ci sono antenne poi che sono anche pesanti, e non è come la 27, metti un filo, metti una canna da pesca per dire trasmetti, ma a quei livelli devi essere anche attrezzato se vuoi fare radio in una certa maniera, se no rimane sempre a livello molto basso, e allora non è che valga la pena più di tanto. Però se uno ha studiato, se prende la patente e si attrezza, è una gran bella cosa veramente, non ci sono dubbi, perché è appassionato e sono, ripeto, delle passioni molto, molto genuine, per cui va bene così. Avanti Claudio. Ecco, buonasera, Claudio Suardiero, volevo un controllo di segnale radio per favore, che sto provando al 430 che arriva a Tucci, così lo stacco tranquillamente, so che funziona. Avanti, buonasera a tutti. Ok, grazie Claudio. Da te Giulio? Dove è 18, 17, 18 e la radio non c'è da discutere niente. Avanti. La radio è sempre la stessa, bene, saluto a tutti, allora grazie. Roberto, a te non te lo chiedo neanche, sei 9 più 60, va bene così, dai. Stavo aspettando sta benedetta radio per poter scollegare il cavo e tirarlo su, finalmente oggi ce l'ha fatta ad arrivare. Va bene, un saluto a tutti di nuovo, e niente, ci sentiremo quando sarà, ci sarà tempo e momento, dai, grazie a tutti, avanti Roberto. Lo sai, non ci sono problemi, non te lo dico neanche il segnale, perché lo sai, per cui non te lo dico, la radio è la stessa cosa, per cui è sempre il solito, ottima radio, ottimo segnale, siamo vicini, non c'è niente da eccepire. Ok, quando vuoi già sai dove trovarmi. Avanti a te Giulio per Claudio e poi l'altro Claudio per salutare l'altro. Break, registrato il break. Va bene, dai, facciamo entrare subito il break e poi facciamo girare. Avanti il break. Capo, buonasera a tutti. Allora, a parte mia, classe 9 più 40 e Radio 5, a bomboletta proprio. Grazie, grazie a tutti, grazie a tutti. Buon proseguo di serata, buon proseguo di QSO e buona vita a tutti. Avanti Muros, ciao, ciao, ciao. Eia, saluto ad Antonio perché io tra poco devo chiudere, devo andare a mangiare. Però ho notato una cosa, tu Claudio di Muros ti stai abbassando il segnale. Da 9.15 adesso sei quasi 9.10. Capo, allora non è una sensazione mia, è più basso il segnale stasera. Ok, d'accordo, dai, con questo intanto saluto Antonio che è appena entrato. Sì, intanto anch'io chiudo adesso, che sono già le 8 circa, per cui scendo giù per la cena. Sì, intanto volevo farti sapere a tu, non so se tu l'hai saputo, sai chi è morto? Ti ricordi il calzolaio, quello che abitava vicino a casa tua, di tuo padre, diciamo, dai? È morto domenica, dice che l'hanno portato via. Maga, Rubabbo! Sì, Rubabbo, certo, e allora qua? Non sapevo nulla, no Giulio. Cesso, no, non ho saputo, vabbè, non essendoci più lì, no, non ho saputo niente, cavolo. Non ho detto niente, babbo, nemmeno. Un babbo di cosa è morto, di forse non lo si conoscesse. Sì, sì, a tu, il padre è morto, sì. L'ho saputo stasera io, che io sono salito un attimo in città, sono salito e ho visto il figlio, lui si è avvicinato, mi ha detto niente, è saputo di babbo. Ma tu cosa dovrei sapere? Babbo l'abbiamo portato via domenica che è morto, capito? Va bene, dai, io adesso vi saluto e chiudo, sono le 8. Ciao Antonio, ciao Claudio di Muro, sono Claudio di Sassari e Roberto. Riprende Roberto, salutoni a tutti, ascolto finale e poi chiudo, vai. E io riprendo io, dai, anche io chiudo adesso. Ti saluto Giulio, è sempre un piacere conversare con te e con tutti gli amici, soprattutto quelli che c'erano adesso, non c'è problema, ti auguro una buona cena, buon proseguo e tutto. Anche io faccio cena adesso, non credo di rientrare dopo. E saluto di nuovo Antonio, che di sfuggita l'ho sentito, Claudio lo stesso di Muro, ti saluto. Fammi sapere eventualmente, solo a livello curiosità, quanto ne vuole di quell'apparecchio lì e vediamo un pochettino. Poi se capitando uno volete capitare, me lo fai conoscere a Nicola, Claudio, e vediamo un po'. Ti rilancio il mic per salutare a Giulio e che passerai poi il mic ad Antonio. Cappa, ma io volevo chiedergli se c'è ancora Giulio, ma cosa hai combinato stasera? È che sei più forte del solito, sei. Io? Eia, mi arrivi molto più forte stasera. Io niente non l'ho combinato, nulla di tutto. Sai cosa vuol dire nulla? Nulla di nulla. Anzi, sono esattamente come sempre, né più né meno. Quello vento che è come ha migliorato a che cosa? Questo non lo so, quanto cosa può essere, non lo so, me lo credo, non ci sia qualche problema nella tua antenna, e la mia è sempre quella, non ho fatto nessuna modifica, niente. Il baracchino è sempre allo stesso livello, perché come si sta arrivando? Fammi capace. Ma se quasi 9:26 in oggi. Ebbene, non era sempre così. E allora, che differenza fa? No, era sempre 9:10. No, ma metto come avevi detto 9:20, cosa ne so. Io non so cosa dite, vabbè, comunque. Sono contento per me e per te che mi ascolti più forte. Tutto lì. Vabbè, ci sentiamo. Ciao tu, ciao Roberto, ciao Claudio. Ciao, chiudo. Ehi, a capa, ciao Giulio. Ciao. E invece cosa non riesco a tirarlo fuori stasera? Cosa ha combinato? Ma come si dice, Robè? Cosa è, Claudio da Muros, come mai così basso stasera? Roberto, dai, io vi saluto, dai, che è quasi pronto a mangiare. Attenzione, 10, c'è qualcuno, capa! Quelle antennina, ci sono rimaste, conservo tutto, anche te lo do, non c'è problema, te l'ho detto. Caffa, devi entrare sotto, devi entrare, poi già non va problema. Ok, grazie, ok. Dai, io so ti saluto adesso, guarda, me l'avevo letto, credimi, sono a pezzi, un bel stanco. Ciao, ciao, buonanotte. Ciao a te, buonanotte, saluta Sara, e anch'io sono un bel stanco. Sono sale scendi, e sono stanco anch'io, dai. Già ci sentiamo a te un'altra occasione, non ti preoccupare. Quando sarà tutto finito, l'ho messo tutto a posto, già ci sentiamo come prima, adesso non mangio più bene, che ha fatto la chi. Ciao, ciao. Ciao, ciao, cara.